ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi. Lo sbarco in Calabria non fu men audace né men fortunato dello sbarco a Marsala. Il giorno 19 d'agosto salì Garibaldi sul piroscafo Franklin comandato dal capitano Rigoni, amicissimo suo, anzi il solo, dopo Medici, col quale si trattasse col tu. Lo Rigoni era stato lungamente con lui in America e passava per marinaio abile ed arrisicato. Il Franklin era lo stesso legno che i borbonici avevano catturato nelle acque di Piombino mentre recava in Sicilia il battaglione del colonnello Clemente Corte e doveva tenersi in conto d'una delle migliori navi da trasporto della nostra piccola flotta. Vi furono caricati sopra 1200 uomini, cioè qualcuno di più di quanti ne potesse portare comodamente. Garibaldi, appena salito sul Franklin, pigliò il comando e cominciò a dare ordini, facendo segnale al Torino di seguire la sua rotta. Il Torino era un bellissimo e grosso legno che per la prima volta appariva nella gloriosa varaonda nostra e che seppe ricevere a bordo quasi 3000 volontari. Lo comandava Nino Bixio, che impaziente di più lunghi riposi e dispettoso di non aver potuto dividere con Medici gli allori di Milazzo, sentiva prudersi le mani. Verso sera i due legni presero il largo col ciel sereno e mare placidissimo. I volontari, sebbene stretti come le acciughe e nuovi per la più parte ai viaggi marittimi, cantavano a piena gola ed erano pieni di voglia di vedere in faccia il nemico. Lo sappi per chi è venuto chi, forse vi confonde ne ho fantasticari, come non saggio per chi è venuto cuori, si fa mari la vento pipiniari, lo sappi per chi, chi sta muri chi cuva è. Trascino anni, scarpe rotti e rosi, dentro un letto di ciume illusioni, asciutto da fanni. I momenti volavano, e la distanza che separava il Franklin dai due pericolosi vicini diminuiva a vista d'occhio. Origoni guardava anche egli il generale e pareva impaziente di ricevere da lui qualche ordine. Molti occhi si staccavano di quando in quando di sulla maschia e pittoresca figura del generale per guardare i fianchi delle due navi nemiche che apparivano muniti di grosse artiglierie. Ad un tratto Garibaldi gridò: «Origoni, alzate la bandiera americana!» L'ordine fu eseguito in un baleno. Tosto, la fulminante, dopo molti giri e rigiri simili a quelli che si fa per aria il falco, prima di piombare sulla sua preda, si pose sopravvento al Franklin, mentre l'aquila gli si poneva sotto vento. Dopo poco, il portavoce mandò dalla fulminante le parole che seguono. «Di dove venite?» Origoni, impugnata a sua volta il portavoce, rispose in lingua inglese «Non vi capisco». Allora la fulminante pose in mare una lancia, e la lancia venne vogando verso il Franklin. Una voce rinnovò di sulla lancia la domanda «Di dove venite?». Questa volta Origoni aveva un buon pretesto, non solo per non capire, ma anche per non udire, giacché il Franklin, che pochi momenti prima s'era messo in panna, aveva cominciato a fuggir via velocemente per ordine di Garibaldi, e il rumore della macchina e il gorgoglio delle onde non lasciavano giungere all'orecchio ben distinti i suoni del portavoce. Per verità, in quel momento fu un miracolo che qualche cannonata non volasse da fianchi della fulminante, ma la bandiera americana seppe fare quel miracolo. Le due navi borboniche lasciarono il Franklin continuare la sua corsa e virarono di bordo. Ma appena esse ebbero girato il capo d'armi, videro il Torino, lo riconobbero per un legno nemico e si dettero a cannoneggiarlo. Quando poi il capitano del fulminante s'accorse che cannoneggiava una nave abbandonata, messe in mare le lance, mandò gente a bordo che pigliasse quel che c'era da prendere e spiegate le vele, impeciatele ben bene, vi appiccasse il fuoco. tosto messo fuoco al Torino, il valoroso capitano della Fulminante, ritirata a bordo la sua gente, cominciò a sfolgorare bravamente coi cannoni l'acceso legno e non ristette dalla sua brutale e ridicola battaglia finché la magnifica nave, rotta e sfasciata, non sprofondò nei flutti. Garibaldi fu spettatore lontano di quell'incendio e di quella batteria furibonda, e tanto gli increbbe il barbaro scempio che, accennando la fregata napoletana, esclamò: «Ecco le loro battaglie!» Mentre il Torino bruciava, ci fu chi disse a Garibaldi: «Datevi pace, generale! A Marsala perdeste un vapore e guadagnaste la Sicilia. Oggi perdete un altro vapore e guadagnate Napoli!» Garibaldi tenne queste parole per augurio lietissimo, e veduto che le navi borboniche, intente a distruggere la facile loro preda, più non si occupavano del Franklin, fe tosto virar di bordo e dopo alquanto cammino gittò il naviglio sulla costa di Calabria e prese terra con la sua gente. Le forze nemiche erano numerose due volte tanto, ma Garibaldi non contava i nemici. Era certo che i popoli delle Calabrie non avrebbero tardato ad insorgere. Poche ore dopo lo sbarco, seppe intanto che Bixio aveva occupato buone posizioni in vicinanza di Reggio, laonde, presa la via dei Monti e inoltratosi per alquante miglia, mandò in cerca di Missori, che sapeva essere in Aspromonte, ordinandogli che lo raggiungesse tosto con la sua gente in un punto indicato. In quel punto, però, lo attese invano per l'intera notte e per il giorno che seguì, giacché il messaggero, avendo smarrito la via, non giunse a Missori se non ad ora molto tarda, e così accadde che la marcia del valoroso comandante delle guide fosse ritardata oltre i calcoli del generale. Il piccolo esercito passò tranquillo le prime ore della seconda notte sui monti, tenendosi in buona guardia, giacché era certo che due corpi di truppe borboniche, comandate dal Briganti e dal Melendez, avuto contezza dello sbarco dei garibaldini, accennavano muovere da San Giovanni in soccorso di Reggio. Verso le ore 9 giunse finalmente Missori coi suoi 200 o 300 uomini, e Garibaldi, contentissimo per l'arrivo suo, dormì sino alle 11 sotto una tenda formata con due coperte, senza dare ordine che lo svegliassero e senza comunicare ad alcuno se avesse in animo di passar la notte in quel luogo o intendesse invece di partirsene innanzi giorno. Poco dopo le 11 si destò, e incontanente fece chiamar Missori e volle che la colonna si mettesse subito in marcia alla volta di Reggio, designando di assalire innanzi giorno la città, difesa da due forti e presidiata da oltre 2000 uomini. Nino Bixio, il quale sin dal giorno innanzi aveva ricevuto dal dittatore ordini ben chiari, si mosse nello stesso tempo per assalire di fronte il castello, dove era chiusa la metà della guarnigione, mentre Garibaldi e Missori si sarebbero adoperati a sloggiare l'altra metà da una posizione che aveva occupata fuori dell'abitato dietro un torrente che in quella stagione estiva era secco. L'attacco ebbe principio alle 3, cioè poco tempo innanzi l'alba. Bixio, alla testa dei suoi cacciatori, si spinge alla carica e, cogliendo il nemico quasi alla sprovvista, lo sforza con un furioso assalto a sloggiare dalla sua posizione e a riparare dentro le case. Il combattimento tra i nostri, che tempestavano allo scoperto, e i regi, che rispondevano con un fuoco ben nutrito di dietro ai ripari delle case, durò accanitissimo per un bel pezzo, ma alla fine la pertinacia di Bixio l'ebbe vinta e il nemico riparò entro il castello. Garibaldi, avvicinandosi a Reggio ed avuta piena contezza dell'accaduto, avvisò indispensabile di impadronirsi del castello innanzi che gli aspettanti aiuti giungessero, e si dette a circondarlo e a coronar di truppe le alture che il castello signoreggiano. Mentre egli a questo si adoperava, il castello spiegò bandiera bianca e si rese. La brigata capitolò senza colpo ferire. I soldati borbonici, vaganti qua e là, come predoni fuggiaschi, incontrarono dopo due dì a Mileto il loro generale e lo uccisero a fucilate sulla piazza dell'arcivescovado. Triste e doloroso per tutti, ma dolorosissimo fu per Garibaldi l'aspetto delle soldatesche borboniche, le quali, disarmate ed avide di bottino, si dispersero per rubare o per far mercato dei cavalli e delle robe, senza che fosse possibile ispirare in esse un sentimento di patriottismo e di onore, senza che ci venisse fatto di fare intendere a quei figli indegni d'Italia che, lungi dal considerarli come nemici vinti, anelavamo il momento di accoglierli nelle nostre file, di chiamarli fratelli ed averli compagni in maggiori e più gloriose battaglie. Da Reggio, su per la Calabria, fin presso Cosenza, non si vedevano se non torme di borbonici che vagavano per la campagna, sordi a qualunque preghiera, a qualunque rampogna, e irremovibili nel proposito di volersene tornare alle loro case. Garibaldi pianse più d'una volta nel vederli, e non si stancava mai di ripetere: «Peccato! Che bei soldati sarebbero! Che bel marciare sarebbe con questa gente alla volta di Roma!» E veramente, quando ci si preparava in Genova alla stupenda sua impresa, non pensò mai che i soldati del Borbone non sarebbero stati buoni né per il loro re né per l'Italia. Egli accarezzava allora la speranza di poter unire quei bei battaglioni ai battaglioni dei volontari e formare così un esercito poderoso e rompere la tregua con l'Austria e chiamare i romani alla riscossa. Era un sogno audace, senza dubbio, ma un sogno generoso, e noi non dobbiamo ascriverlo a peccato all'uomo che ebbe tanta poesia nel cuore ed amò tanto l'Italia. Giungemmo 2 giorni dopo in Cosenza e Nino Bixio cavalca dinanzi a noi. Appena che fummo giunti in città, 1000 voci domandarono: «Dove son sepolti Bandiera? Dov'è sepolto Moro? Dove giace Ricciotti?» E poco dopo baciammo una tomba e visitammo un campicello solingo dove i martiri magnanimi avevano espiato con la vita l'amore d'Italia. Era lì, con una gran croce in mano, il prete che li aveva confortati alla morte. Era lì il becchino che li sotterrò, erano lì parecchi spettatori del supplizio, e tutti ci narrarono come i campioni d'Italia marciassero con fronte alta alla morte cantando il coro di Donna Caritea. Chi per la patria muor, vissuto è assai, la fronda dell'allor non langue mai. E Nino Bixio si scoperse il capo e, girando gli occhi di falco, ci arringò come avrebbe fatto sul cominciare d'una battaglia, e i nostri occhi luccicavano di lacrime e le nostre labbra mormoravano tra singhiozzi una benedizione, e le destre strinsero le destre, e poi un urlo feroce riempì l'aria, e quell'urlo intonava un giuramento che fu compiuto a Capua e fu compiuto a Roma. Inginocchiamoci tutti e leggiamo. Il 14 marzo 1848, alle ore 7:30 pomeridiane, un trabaccolo, comandato dal napoletano Caputo, partiva dalle acque di Corfù verso la costa calabrese. V'erano dentro Giuseppe Miller, Giovanni Venerucci, Giacomo Rocca, Domenico Lupatelli, Giuseppe Pacchioni, Carlo Osmani, Francesco Berli, Anacarsi Nardi, Domenico Moro, Niccolò Ricciotti, Pietro Pazzoli, Tommaso Mazzuoli, Francesco Tesei, Giuseppe Tesei, Luigi Narni, Giovanni Manessi, Paolo Mariani e Pietro Bocchesciampe, corso che dovea fra tanti martiri occupare il posto di Giuda. A tutti sovrastavano per grado e valore, ma non per fermezza magnanima di intendimenti, Attilio ed Emilio Baroni Bandiera, figli di un ammiraglio a servizio dell'Austria, essi occupavano il grado di alfiere nella marina austriaca, e Attilio si trovò con Domenico Moro nella flotta d'Europa confederata che bombardava San Giovanni d'Acri. Quando i prodi veneziani andarono a piantare la bandiera europea sui contesi baluardi di Tolemaide, Attilio, nell'ora del trionfo, fu preso da un sacro fremito, e voltosi a Moro, gli corsero sul labbro quelle patriottiche parole che Pellico pone in bocca a Paolo nella sua Francesca. Stringendo la destra a Moro, «Non abbiamo ancora noi», gli disse, «una patria a cui consacrare il nostro sangue? Si guardarono l'un l'altro, vergognosi delle austriache insegne che indossavano, della bandiera sotto cui aveva militato fino allora, e sotto il cielo di Palestina fecero solenne giuramento di abbandonare il vessillo straniero e di spender la vita soltanto per l'indipendenza d'Italia. Lo sappi perché chi sta muri che cuba è arte si trascina anni scarpi rotti e rosi dentro il letto di ciunga illusioni asciutto da fanni. Stando in Cosenza avevo udito l'annuncio del miracoloso ingresso del dittatore in Napoli e a me tardava raggiungerlo per ripigliare presso di lui il posto che avevo lasciato per accompagnarmi col colonnello Malenchini. Troppo tempo però ci voleva per raggiungere a Napoli per via di terra, sicché domandai a Bixio quale fosse il porto più vicino nel quale avrei trovato modo di imbarcarmi. Bixio mi disse che andassi con lui a Paola e colà mi imbarcherei prontamente con la sua divisione perché nel dì 21 tre legni a vapore dovevano giungere in porto per toglierla a bordo e trasportarla a Napoli. Mi posi dunque in cammino insieme alla sua gente in una serata afosa e scura che ci prometteva una cattiva notte e ben presto, lasciato il piano, cominciammo a salir su per i monti. Appena fatto buio, principiò il tuono a brontolare in lontananza, poi brontolò da vicino, e grossi goccioloni caddero dalle nugole rotte di quando in quando dai lampi. Avevamo fatto poche miglia allorché le tenebre si fecero fitte più che mai, e a segno tale che spesso bisognava che ci fermassimo aspettando che guizzasse un lampo per farci certi della strada. Cavalcava accanto a Menotti e ad altri due ufficiali. I soldati ci seguivano cantando allegramente, ridendo dei lampi e dei tuoni e dell'acqua che veniva giù a catinelle e ci aveva tutti zuppi dal capo ai piedi. Io non rammento una bufera uguale a quella. Raffiche furiose di vento minacciavano a tratti di rovesciarci giù e ci mozzavano il fiato. Le folgori scoppiavano con immenso fragore in mezzo alle vallate solinghe e la luce dei lampi ci faceva vedere alla sfuggita i burroni spaventosi che di qua e di là fiancheggiavano la strada serpeggiante sui fianchi delle montagne dirupate. Due o tre volte udimmo gran tonfi e grida disperate e ci fermammo. Alcuni carri e cavalli erano precipitati giù negli abissi, trascinando seco i disgraziati uomini che li conducevano. Saputo di che cosa si trattasse, seguitavamo a marciare, raccomandando alla gente che si tenesse guardinga nel mezzo della strada e procedesse in buon ordine. Durò quella furia un paio d'ore o tre, e ci fu proprio chiara la verità del proverbio che dice «Gente allegra, il ciel l'aiuta». Finalmente, come a Dio piacque, la bufera si calmò alquanto, e i nostri poveri occhi distinsero diversi lumi, segno certo che ci avvicinavamo a luoghi abitati da creature umane. Giungemmo al villaggio di Santa Fele, che siede sopra un breve altipiano, e fatta sosta, chiedemmo ed avemmo ricetto per le botteghe e per le case, occupandoci a rasciugare al fuoco i nostri panni fradici mezzi. Tre ore dopo, essendosi rasserenata alquanto il cielo, le trombe suonarono l'assemblea e ci rimettemmo in cammino. A due ore di giorno cominciammo a scoprire di sulle creste dei monti che man mano si venivano abbassando la marina di Paola. Quando fummo vicini a quella città un tre o quattro miglia, Bixio ci passò accanto di gran galoppo col suo stato maggiore e disse qualche parola a Menotti. Tosto la truppa accelerò il passo e ad un certo punto cominciò a correre. Ora narrerò i casi che accaddero in quel giorno, comici in parte ed in parte tragici, dai quali apparirà chiaro sempre più che l'occhio e l'autorità di Garibaldi erano tra noi più necessari del favore della divina provvidenza, e che dove mancavano quell'occhio e quell'autorità c'era da aspettarsi da un momento all'altro una seconda edizione della Torre di Babele. A una certa ora Bixio, che con le sue genti era passato di corsa in mezzo ai battaglioni di Cosenz e a una parte della divisione Medici, giunse in Paola e recatosi sulla spiaggia e veduto che Medici aveva tutto pronto per l'imbarco, disse: «Nessuno partirà prima di me. Io partii primo da Genova e non voglio che chi partì dopo di me mi preceda in Napoli a fare il bello». Indarno fu detto a Bixio quanto aveva ordinato Sirtori, capo dello Stato Maggiore Generale. Indarno gli si volle far notare esser regola che le truppe si imbarcassero regolarmente a misura che arrivavano sul luogo dell'imbarco. Incaponito nel proposito di imbarcarsi per primo, egli scacciò di sulla spiaggia quei soldati di Medici che già l'avevano occupata e fece avanzare i suoi e si tenne pronto senza voler udir ragione da chi che sia. Ci fu un momento in cui temetti che la caparbietà del focoso Bixio non avesse ad essere causa di qualche maledetto guaio, perché i soldati di Medici masticavano male quella specie di prepotenza e Medici stesso non sembrava disposto a tollerare in pace una riffa di quella sorta. I ferri erano caldi da ambedue le parti e non mancava se non una scintilla per dar fuoco alle polveri. Per buona sorte Medici, che fu sempre un uomo ragionevole, seppe fare di necessità virtù e cedette pro bono pacis alla strana pretesa del furibondo amico e risolvette lasciare che ei si imbarcasse a suo agio e se n'andasse con Dio e col suo capriccio. Qui ebbe fine l'avventura che chiamerò comica, ma adesso comincia la narrazione d'un'avventura che a buon diritto dee chiamarsi tragica e della quale nessuno, per quanto io sappia, fece cenno nelle storie o nelle cronache della guerra per la liberazione delle due Sicilie. Erano le 3 dopo mezzogiorno, quando i soldati di Bixio cominciarono ad imbarcarsi. La giornata era caldissima e il sole picchiava forte, né bastava a temperare gli ardori il venticello fresco che cominciò a spirar sulla sera. Bixio, che stava sulla spiaggia a regolare l'imbarco, aveva ordinato che si vietasse ai soldati di sdraiarsi sul ponte dei piroscafi, parendogli che, essendo questi troppo piccoli per contenere comodamente l'intera sua divisione, fosse indispensabile il far sì che nessuno con lo sdraiarsi occupasse maggior spazio di quanto era necessario per un uomo in piedi. Ora, accadde che alcuni volontari che si erano imbarcati pei primi e che da più d'un'ora e mezzo stavano a rosolare sotto la sferza del sole, sentendosi stanchi, si stesero sul ponte e cominciarono a dormire la grossa. Questo accadde specialmente sul piroscafo elettrico, dove io mi imbarcai e che per essere più degli altri vicino a terra si serbò per caricarvi sopra le truppe che ultime rimanevano sulla spiaggia. Caso volle che quando gli altri due legni furono carichi del tutto, restassero ancora da imbarcarsi 2 o 3 centinaia d'uomini, i quali vennero spediti all'elettrico. Il comandante dell'elettrico, senza badare che molta gente giaceva sdraiata sul cassero e che, facendola alzare, si sarebbe guadagnata assai luogo, mandò a dire a Bixio che il suo legno era pieno zeppo e che non stesse a mandargli altri ospiti. Tutto ciò accadeva mentre io me ne stavo a sedere a poppa ragionando col brigadiere Dezza e coi colonnelli Piva e Taddei, i quali, al par di me, erano lungi le 1000 miglia da sospettare che Bixio fosse lì lì per saltare in bestia e per fare la gran corbelleria, per non dir peggio, che fece di lì a poco. Ragionavamo dunque tranquillamente, col nostro bravo sigaro in bocca, quando una lancia si venne avvicinando all'elettrico, e ritto sulla prua di quella lancia vedemmo Bixio, col suo mantello di lana bianca sulle spalle, che gesticolava furiosamente col braccio destro, mentre il sinistro, con la mano ferita, aveva adagiato sulla sciarpa che annodata gli pendea dal collo. Ci guardammo in faccia meravigliati, non sapendo, né potendo indovinare, con chi l'avesse costui. Ma di lì a un minuto la sua voce annunziò che ei l'aveva a morte col capitano del vapore, col brigadiere Heber e con tutti gli ufficiali che erano a bordo. Giunta la lancia sotto il fianco dell'elettrico, Nino Bixio, senza aspettare che gli calassero la scala, tolse dalla sciarpa il braccio ferito e con ambo le mani afferrò una cima e venne su, lesto come un gatto selvatico, a bordo. E veduto il ponte pieno di gente che dormiva distesa come a letto e fatto capace che i suoi ordini non erano stati obbediti, divenne peggio dell'arcidiavolo e cominciò a gridare: «L'avevo detto io che non mi si è voluto obbedire, l'avevo detto, su poltroni, su tutti!» E in così dire, dato il piglio alla canna della prima carabina che si trovò fra i piedi, si dette a menar giù col calcio, non altrimenti che battesse le spighe del grano col correggiato sull'aia, non pensando che percuoteva teste e membra di poveri soldati tedeschi della brigata del nostro buono e bravo colonnello Heber. Noi che stavamo sulla poppa non avevamo veduto ciò che a Bixio avesse fatto fare la sua furia, ma udendo le grida e vedendo muoversi la folla e sguainarsi lame ed agitarsi schioppi, fummo solleciti ad accorrere, e dico veramente gran ventura che così fosse, perché il Dezza e gli altri ufficiali superiori insieme al brigadiere Eber poterono solo a gran stento trattenere i tedeschi e gli italiani Massime e i marinai dell'elettrico che, inveleniti com'erano, non facessero a Bixio qualche mal giuoco. E il furibondo, appena vide farsi un po' di largo, si slanciò sulla prua e quivi col revolver in pugno sfidava la folla, gridando con inaudita ardire: «Avanti, avanti! Chi ha il coraggio di toccare Nino Bixio?» E parea volesse ad ogni costo battaglia, mentre i suoi ufficiali, in lingua nostra e in lingua tedesca, s'adopravano a salvarlo e gli cercavano una via di scampo. Condotto quasi a forza sino alla scala, ei l'ascese minacciando sempre, e minacciava ancora mentre la barca lo traeva via, e non ristette dal gridare e dal maledire sinché non fu a terra. Quietato a bordo il tumulto, si vide che 3 o 4 tedeschi erano più o meno malconci, e che un povero trombettiere ungherese aveva offeso così crudelmente il cranio da lasciar poca o punta speranza di sopravvivere sino al dì venturo. I feriti vennero subito medicati e si consolarono taroccando in tedesco, ma il povero trombettiere si rattristò coi suoi gemiti per quasi l'intera notte, e non saprei dire se la mattina lo trovasse vivo. Quel disgraziato fatto ci addolorò, ma non se ne fece né allora né poi a Nino Bixio tutto il gran carico che meritava, giacché la gente era usa a perdonargli volentieri per la sua gran bravura e perché sapeva che certi tratti di ferocia fu solito commetterli quasi senza accorgersene, trascinandovelo con forza superiore alla volontà, l'indole impetuosa e insofferente d'ogni contrasto, anche minimo. Si seppe poi che, dolendosi amaramente, come era uso, del gran peccato commesso, pianse per tutto il viaggio e si morse le mani e maledisse la sua furia. E chiunque conobbe il gran cuore che egli ebbe, non dubiterà che ei non avrebbe dato volentieri tutto il suo sangue perché l'accaduto non fosse. Io, per parte mia, pensando a quel fatto, rammentai i peccati di manesca ferocia nei quali molti illustri capitani del tempo andato trascorsero sovente, e trovai anche da quel lato la figura di Nino Bixio somigliante assai a Giovanni dalle Bande Nere o a Francesco Ferrucci, ai quali però vuol darsi scusa con maggior larghezza per la diversità dei tempi in cui vissero e degli uomini che ebbero a comandare, e mi parve non dover essere stato molto diverso da Bixio il condottiero dalle Bande Nere, quando, dopo una zuffa, tornandosene all'alloggiamento, trovò certi suoi soldati intenti a scaldarsi a fuoco, acceso con i pezzi d'un crocifisso che aveva rotto, e 2 ne uccise a stoccate, e gli altri pose in fuga malconci. L'alba splendea bella e serena quando si spiegò ai nostri occhi l'incantevole meraviglia del Golfo di Napoli.